noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati, di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. L'euforia fa bene, la presunzione no, è quello che dobbiamo capire noi, che dobbiamo continuare a lavorare, fare parte di un processo di crescita, se non si perde è meglio, però prendere le sconfitte in maniera intelligente e cercare di lavorarci sopra dove sono stati gli errori. Dal mio punto di vista, tecnicamente per la squadra che siamo abbiamo sbagliato un po' troppo, però sempre ricordandosi che davanti abbiamo una squadra che contro tutti fa fatica a giocare, però la squadra ha dimostrato di potersela giocare alla grande, di avere anche un'ottima personalità in quello che sono le nostre giocate. Quando non concede a Barcellona e per loro è stato difficile molto entrare dentro direi le maglie della Juventus, questo vuol dire che è stata fatta una buona partita, ma noi da questo dobbiamo ripartire. L'ho chiesto ai ragazzi stasera, non mi interessava il risultato, mi interessava la prestazione come atteggiamento, come oltre che tecnica, ma soprattutto come cuore, perché altrimenti la Juventus continuava a prendere gol, e la Juventus si difende in un certo modo, è difficile che prenda gol. Dunque, serata in chiaroscuro con le spagnole, più scuro che chiaro, perché se la Juventus, insomma, la vetrina di Torino non è stata esattamente illuminata a festa, 1-0 da dimenticare alla svelta, quella di Madrid, nella parte giallorossa, era oscurata. E Pierluigi Pardo l'ha raccontata come sa chi ha visto la partita su Mediaset Premium e ha ascoltato la telecronaca di Pardo. Dicevamo, Pierluigi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Non esattamente la miglior serata in salsa giallorossa. No, non una grande partita in assoluto, e questo insomma in qualche modo risponde a una tradizione, quella dell'Atletico Madrid, che fa giocare male tutte le sue avversarie, anche nei momenti in cui non è molto brillante. La Roma ci ha messo del suo e secondo me ha perso un'occasione. Per carità, se devi perdere una partita, meglio quella che altre, perché insomma se non ci saranno tragedie la Roma insomma farà il suo dovere. Non penso che si sia messa male, è messa molto bene, e chiunque avrebbe firmato per trovarsi a 90 minuti alla fine di questo girone così difficile in questa situazione. Però insomma ieri secondo me la Roma poteva far meglio, secondo me è rimasta un po' anche impantanata in quel limbo di chi sapeva che un pareggio bastava. Ho la sensazione che non abbia spinto perché non c'era bisogno di spingere così tanto, e poi è rimasta impantanata per il gol dell'1-0. Da quel momento in poi non è riuscita a reagire, quindi sì, giudizio negativo anche nei singoli sicuramente. Insomma, non una grande serata per Gerson, per Pellegrini, per Bruno Pérez, insomma sì. Rispetto ad altre occasioni, l'avevo commentata col Chelsea, che fu il giorno del Big Bang di questa squadra, di questa formazione, quella abbiamo visto ieri sera, molto simile per 10 undicesimi, e ieri invece non andava così. Ma posso dirti, secondo me una squadra con l'istinto del killer, sapendo peraltro di poter perdere, quindi giocando anche relativamente leggera sull'onda di questa classifica, della vittoria col Chelsea eccetera eccetera, una squadra con l'istinto del killer sarebbe andata a Madrid per vincere la partita, proprio giocandosi tutto per vincere la partita, perché arrivare primo nel girone va bene, che Real Madrid sarà secondo, il Bayern Monaco sarà secondo, però aveva un certo peso specifico e una certa importanza. Un medio vantaggio ad oggi c'è nell'arrivare primi nel girone, anche se ci sono quelle due che sono molto molto pericolose. Anzi, da un certo punto di vista ti propongo questo giochino: potrebbe pure succedere che a febbraio-marzo Bayern e Real, che sono due squadre un pochino più tradizionali, un po' più abituate a vincere, possano essere migliori di Paris Saint-Germain e Manchester City, che in questo momento sono migliori. Cioè, in questo momento Paris Saint-Germain e Manchester City sono le due squadre più forti d'Europa, credo, senza se e senza ma. Poi c'è Barcellona, non ce lo dimentichiamo, però voglio dire, sono le due squadre che sicuramente hanno fatto meglio in autunno, però magari a febbraio sarà diverso. Comunque, no, detto questo, sono d'accordo con te, serviva un altro tipo di atteggiamento, però insomma io vedo anche il bicchiere mezzo pieno di una squadra che arriva l'ultima partita con la qualificazione in mano, con una crescita comunque che secondo me si è vista anche ieri, perché ieri qua per il primo tempo insomma la Roma ha fatto non una cattiva partita in casa dell'Atletico Madrid, insomma ripeto, il rammarico per una grande occasione persa, ma la consapevolezza che il viaggio possa continuare. Devo dire la verità che Di Francesco nel post partita mi è piaciuto, perché comunque ha richiamato subito una parola che è quella presunzione, che io non so se abbia avuto la Roma ieri. Ma no, secondo me doveva averne un pelo di più, posso dirti. Ma proprio per le ragioni che ti ho detto, sono curioso di sapere invece che impressione ti ha fatto l'Atletico, che da molti era dato in difficoltà, compreso Filippo Margaricci, che lo conosce molto bene. Io ieri ho sparato, ma allora finita quest'era del Ciolo, magari il Ciolo sarà così. Sto giocando a fantacalcio, sarà un allenatore gettonato il prossimo fantacalcio mercato? Guarda, come dicevamo ieri, l'Atletico in realtà ha perso una sola partita in tutta la stagione, quindi con definirlo squadra in crisi secondo me è sbagliato. Sicuramente il momento migliore dell'Atletico è alle spalle, sicuramente il feeling con questo stadio bello ma un po' freddo in effetti, non è ancora cominciato e l'Atletico in questo momento fa abbastanza fatica a fare gioco, e anche ieri tutto sommato, perché insomma nei primi 60 minuti aveva costruito qualcosa ma più di confusione che di manovra, quindi anche ieri secondo me non ha fatto una partita clamorosamente bella. Però ha beccato i cambi giusti, ha trovato qualche errore della Roma. L'Atletico è molto solido, ha pareggiato quest'anno con Real Madrid e col Barcellona in casa, non è una squadra che improvvisamente è diventata scarsa, è una squadra che fa fatica a esprimere un gioco offensivo all'altezza, e secondo me anche ieri non lo ha espresso. Però dimmi una cosa, infatti mi sembra perfetta la fotografia, che ieri non lo ha espresso, però comunque ha fatto una partita solida di quelle che sa fare, e la Roma ha fatto degli errori, li ha pagati, cioè questa mi sembra un po' la sintesi della partita. Sì. Un'ultima cosa per Luigi, prima di lasciarti andare a prendere il volo, dato che tra poco apriremo il capitolo Juventus, ovviamente tu eri a commentare quella partita alla Roma, eri a Madrid, però saprai, avrai visto, avrai letto, che idea ti sei fatto della partita di ieri sera? Ma che è un risultato che alla fine va bene a tutte e due, che la partita di ieri non è stata un granché, nel senso che la Juve aveva bisogno di autostima. Allegri ha detto che gli voleva soprattutto la prestazione ancora più del risultato, che non so se sia vero fino in fondo, però voglio capire, cioè capisco che cosa c'è dietro una frase del genere. Voleva ritrovare le certezze svanite a Marassi, e secondo me le ha ritrovate, perché la Juve ha giocato una partita tosta, solida. Poi non è stata la partita più spettacolare del mondo, Barcellona per 56 minuti si è concesso questo lusso. A proposito, ieri eravamo con Ricci, c'era un ascoltatore che ha telefonato dicendo quando è che ha fatto un rover il Barcellona? Mai, è l'ha chiaro. Fatto ieri, no, quando è che non fa giocare Messi? Mai. Ma per quello a me è sembrata, guarda, poi lo dirò, insomma sono onesto su questo, anzi sfido anche gli ascoltatori 800 24 00 24, a me è sembrata una partita piuttosto finta, in cui la Juventus non poteva perdere per un sacco di ragioni, il Barcellona poteva anche non vincere, quindi lasciare Messi seduto era un chiaro messaggio di non belligeranza, ma agonistica. Non è un biscotto. Non sto dicendo che è un biscotto. Guarda, la partita non l'ho vista nei 90 minuti, ho visto le immagini e ho sentito i commenti, quindi sarei disonesto se ti dicessi che l'ho vista tutta. Quella, l'idea che ho ricavato è quella, sì, di una partita nella quale poi alla fine questo tipo di risultato va abbastanza bene a tutte e due, al Barcellona che chiude al primo posto e alla Juve che adesso ha una strada abbastanza comoda verso la qualificazione. Ed era importante, ed era onestamente molto molto importante per la Juve ieri non cedere in casa contro il Barça, non crearsi casini nel girone, perché insomma dopo Barassi c'era bisogno di recuperare è chiaro. Una condizione psicologica di tranquillità anche ambientale importante, quindi insomma l'obiettivo è centrato. Poi è ovvio che abbiamo visto partite migliori, e la Juve, se vuole essere competitiva a livello europeo, deve crescere come qualità del gioco da qui a marzo. Grazie Pierino, buon viaggio, ritorno. Pierluigi Parri, sentiamo domani alle 2. Noi adesso ci fermiamo per il traffico, poi come detto apriremo capitolo Juventus, apriremo i microfoni agli ascoltatori, continueremo a parlare di Champions. Proveremo a capire cosa succede nelle stanze del CONI e della Federcalcio, perché sorry, ma sono questi gli argomenti del giorno. A dopo. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. sconvocati. Dobbiamo tornare a essere concreti e ritrovare l'atteggiamento Juve, perché è quello che ci ha fatto vincere. Io parlo per me l'anno scorso, ma anche per gli altri, da tanti anni. Sì, la Juve è arrivata a questo livello non è solo grazie alla qualità dei giocatori, è soprattutto grazie all'atteggiamento che hanno messo ogni anno. È quello che dobbiamo ritrovare. Perché? Perché dopo 6 anni che si vince, magari uno può pensare che sarà facile, ma in Italia non è facile niente. Abbiamo visto l'ultima partita a Genova, che non è facile, cioè i giocatori hanno qualità e giocando una partita della vita con la Juve, quindi sì, noi non siamo al 100%, andiamo in difficoltà, è questo che dobbiamo ritrovare. Questo Benatia, che della Juventus è in fondo una riserva delle riserve, uno che dalla panchina si alza raramente, ma c'è anche uno che normalmente gioca, anche se a fasi, nell'ultimo periodo soprattutto a fasi alterne, Paolo Dybala. Dobbiamo cercare di migliorare nel gioco, a difendere siamo bravi, dobbiamo cercare di giocare un po' di più. Dobbiamo cercare di giocare un po' di più a calcio. Dunque, per analizzare la partita della Juventus, io prima ho usato parole un po' forti parlando con Pardo, ho convocato il professor Tony Damascelli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io prima ho usato parole forti nel senso che ho detto che secondo me quella con il Barcellona ieri è stata una partita un po' finta e che... ovviamente non sto parlando di biscotti o pasticceria varia, sto semplicemente dicendo che il Barcellona poteva anche non perdere, la Juventus non doveva perdere, Messi seduto in panchina era un chiaro messaggio di non belligeranza, mi sbaglio? Ma guarda, io sono allergico a tutto ciò che pensiamo sempre di grigio. Quando non sto pensando male. Vicenda, stai pensando peggio. E, per cui lascio a te questo pensiero grigio. No, non è tanto grigio, è sportivo. No, la penso diversamente. E allora dammi una valutazione della Juve. Penso che il Barcellona ha fatto una partita al risparmio sulla Lega e che se avesse potuto vincere l'avrebbe fatto, perché ha preso anche un palo. E ha avuto altre due occasioni e la Juventus ha dato il massimo. La Juventus, questa Juventus, non può dare di più. È un casino organizzato. Il massimo non è tantissimo, allora? No, non è affatto tantissimo. È questo che può dare la squadra seguendo le indicazioni dell'allenatore. Poiché secondo me è finito il discorso tra l'allenatore, l'ho scritto, lo ribadisco, tra l'allenatore e la squadra, se un giocatore come Dybala dice dietro siamo messi bene, dobbiamo imparare a giocare, mi sembra un'accusa gravissima. Sì, anche a me. Non marginale. Apposta l'ho fatto sentire, perché dice dobbiamo cominciare a giocare a calcio, insomma. Sì, ma quando un allenatore ieri sera dice a fine partita non mi interessava oggi il risultato, ma la prestazione, vuol dire che non ha capito nulla. Perché se c'era una cosa importante ieri era il risultato e non la prestazione. Questo è chiaro. Infatti, quindi siamo in piena confusione. Perché siamo in piena confusione? Perché l'allenatore non è più, diciamo, in diretta con la squadra. Diretta con la squadra. Ti domando ulteriormente perché. Dimmi, ti lascio. Perché? Ma capita, guarda, abbiamo un esempio clamoroso nella Bundesliga. Carlo Ancelotti è stato sollevato dall'incarico, essendo il Bayern di Monaco, hanno capito che non c'era più un rapporto tra i giocatori e l'allenatore, anche lì di comportamenti, qui di idee, e hanno preso una decisione molto difficile. Il Bayern si qualifica in Coppa dei Campioni ed è in testa alla Bundesliga. Vado avanti con le considerazioni un po' complicate con te. Posso allora, non è più in sintonia la coreografia di Mandzukic ieri in curva, vuol dire molto, cioè lui è uno dei leader della Juventus, non sta bene, ma era chiaro già da prima che non poteva fare il terzino per un'altra stagione. È un giocatore molto pesante all'interno dello spogliatoio. Buffon è un giocatore molto importante, sto dicendo banalità, all'interno di quell'ambiente, è seduto là in fondo allo spogliatoio insieme a Mandzukic, Barzagli è un senatore. Allora, la rottura è avvenuta, come è accaduto anche in altri contesti che ben conosciamo, dipinti di azzurro, tra allenatore e senatori. No, non è una ribellione dei giocatori come nel caso di, del Bayern di Monaco all'allenatore. È l'allenatore che è lineare in tutto, sorride dopo qualsiasi partita, sconfitta, vittoria o pareggio, e non, a parte le sceneggiate che fanno parte del suo repertorio, di togliersi il cappotto, di togliersi l'impermeabile, di cominciare a urlare negli ultimi 10 minuti dopo che per 80 minuti ha detto alla squadra di star calma, c'è un momento nella carriera di un allenatore in cui è capitato Mourinho, è capitato ad Ancelotti, è capitato a Capello, in cui non si riesce più a trasmettere lo stesso, la stessa idea, la stessa filosofia, lo stesso temperamento, le stesse. Insomma, secondo me la Juventus non ha più un'idea di gioco e si affida ai numeri di alcuni giocatori. A Genova se ne ha avuto la conferma, se qualcuno non avesse ancora capito, con soluzioni episodiche, travolgenti, clamorose, ma singole di un giocatore. E se i grandi, che sono un paio soprattutto, vale a dire Higuain e Dybala, non ti fanno cambiare la partita, la Juventus è in difficoltà. Concludo, concludo. Aggiungo un dettaglio tattico. La Juventus ieri è partita con 2 centrocampisti lentissimi e ha finito con 4 centrocampisti che si pestavano i piedi. Sì. Ecco, allora io ti aggiungo, Tony, un'altra considerazione che è statistica. L'anno scorso era il 22 gennaio, dopo la sconfitta di Firenze, ci fu quella partita in casa con la Lazio, iniziò la rivoluzione con lo schieramento che portò poi alla finale di Champions League, che ben conosciamo e che quest'anno non funziona più. Era il 22 di gennaio, sembrava una buttata di Allegri dopo quella sconfitta di Firenze. Li volete vedere tutti in campo? Bene, ve li metto quasi come sberleffo. Invece da lì nacque la Juventus, che vinse lo scudetto e che arrivò in finale di Champions League. Ci possiamo aspettare qualcosa di questo tipo? Un nuovo corso di questo tipo? Oppure, aggiungo, un'altra, già che siamo in tema, un'altra considerazione difficile, invito anche gli ascoltatori 800240024, la Juventus in questo momento dovrebbe licenziare Allegri? Stai chiedendo a me? A te, no, a te principalmente. Te per questo l'ho detto, l'ho scritto, l'ho detto 2 mesi fa, non adesso. Ma licenziare Allegri oggi sarebbe sciocco, ma secondo me è una contraddizione, ma secondo me è doveroso. È doveroso perché innanzitutto bisogna avere una soluzione immediata in testa e penso che loro l'abbiano. Ma non per il licenziamento, per la soluzione. E perché a un certo punto bisogna cambiare. Se i giocatori dicono, l'ha detto anche Benatia, bisogna giocare meglio. Sì. Bisogna giocare meglio. Qui non è una questione di episodi, di infortuni. Un po' di infortuni. Ma l'infortunio ha riguardato tutte le squadre. Manca l'idea di gioco, mancano gli inserimenti dei centrocampisti in area di rigore, come accadeva fino a qualche anno fa, non ho detto mese, ho detto anno apposta. Gli inserimenti degli esterni bassi, che una volta si chiamavano terzini, dentro l'area, non esistono più. Non so però se sia colpa di Allegri fino in fondo, se Alessandro sembra il fratello scarso di quello dell'anno scorso. Sì, ma è lui che li deve giudicare durante la settimana, non tu e io. No, ma questo di sicuro. Però guarda, io non riesco a dare tutte le colpe a Massimiliano Allegri perché è un allenatore. Che, perché è un allenatore che, no, perché è un allenatore che a me piace tantissimo. La Juventus ha fatto tantissimo, che non è mai stato apprezzato e amato fino in fondo. La gente bianconera, tu lo sai meglio di me. Dall'ambiente juventino, in parte perché veniva dopo la bandiera Conte, in parte perché per il suo passato, in parte per ragioni che mi sfuggono, però è un allenatore che ha dato tantissimo, per la sua linearità. Sì. Per la sua linearità. Aggiungo un particolare: lui è un ottimo professionista, ottimo, non metto in dubbio queste sue qualità. Però ricordati che, ricordiamoci, io me lo ricordo, che quando lui al Milan ha vinto lo scudetto aveva il meglio con Ibrahimovic, con Thiago Silva. Quando sono partiti questi giocatori lui si è trovato in difficoltà. Alla Juventus è arrivato, ha trovato un grande patrimonio, gli sono stati innestati altri grandi calciatori, interessanti calciatori che non aveva Antonio Conte. Lui ha fatto il massimo, il meglio con questi. Quando vengono a mancare i giocatori per infortuni oppure per un calo di forma o per rigori sbagliati, mancando il gioco entra in crisi la squadra. Mancando il gioco nel vero senso della parola. Sì, voi sì. Avete un'identità del gioco, avete visto un'identità del gioco juventino? Ma secondo me manca anche, manca anche la condizione degli interpreti. Ricordate l'identità del gioco milanista? No, non è, quella non esiste. Cioè, parlo del Milan di Allegri. Di Allegri. Il Milan di Allegri, un'identità di gioco. Ma secondo me la Juventus aveva un'identità di gioco ben precisa l'anno scorso, però io non me la ricordo. Beh, è stata l'identità di gioco è arrivata quando sono entrati in campo quelli coi piedi giusti, quelli che, sui quali la Juventus aveva investito denari. Cioè lui ha fatto una tesi di laurea a Coverciano con tre centrocampisti, la sua tesi prevedeva tre centrocampisti, continua a giocarne a due lentissimi. La Juventus gli ha messo a disposizione uno che gioca nel Paris Saint-Germain e nella nazionale di Francia, non nella bocciofila di Pinerolo, e questo sta in panchina. E allora, dinanzi a una situazione del genere, poche idee confuse, io sono disarmato. E adesso vediamo come va, perché la partita di ieri era molto importante anche in chiave campionato. La Juventus non può più permettersi di perdere terreno, e questo è evidente. Un'ultima cosa che riguarda invece, scusa Tony, un'ultima cosa che ti chiedo, perché non ci siamo sentiti negli ultimi 10 giorni di casino epocale, soluzione del rebus Federcalcio. Siamo, a me pare, quasi alla comicità surreale quando Carraro si candida e dice serve il rinnovamento, poi non si sa bene, non si capisce se è commissariabile a Federcalcio oppure no. Ieri la giunta del CONI dice forse sì, ma dopo l'11 di dicembre, se non c'è un presidente delle leghe. Insomma, più casino di così si muore, io credo, no? Bravo, sì. Guarda, nemmeno Montalbano come commissario risolverebbe questa situazione. Allora, bisogna fare veramente punti a capo, ma non solo nel calcio, nello sport. Sport, e per fare questo bisogna un impegno del governo, che sia di destra, di sinistra, di centro, non mi interessa, perché il calcio e lo sport sono un fenomeno sociale, di sanità dei giovani e di salute quasi pubblica di tutti, non solo il calcio, ribadisco. Ma noi siamo indietro, stiamo arretrando continuamente, non soltanto nei risultati, chiamiamoli agonistici e tecnici. Capito. È un paese che ha bisogno di cambiare. Se vuoi una mia indicazione per quanto riguarda la Federcalcio, tutti parlano delle belle gioie, ex calciatori, non si sa perché debbano essere per forza gli ex calciatori a prendere in mano la situazione quando non sanno gestire un gruppo. No, ma infatti, sono stati calciatori, esatto, devono avere una competenza. Io ho individuato un solo personaggio, se vogliamo prenderlo dal calcio, ed è Fabio Capello. Perché dico Fabio Capello? Perché è un uomo rispettato, un uomo spigoloso, un uomo che è conosciuto all'estero, che frequenta le lingue, che ha il carattere giusto per imporsi. Quindi ci sono tutte le premesse perché non venga candidato. Condivido, perché... poi bisognerebbe vedere se sarebbe in grado di accettare oppure no, perché anche questo è un altro discorso, non lo so. Condivido l'idea, però peraltro. È un ruolo importante, è chiaro che in questo momento fare il capo della Federcalcio è sempre prestigioso, ma è impossibile, perché devi fare i conti con i vari condomini, e i condomini. Corretto dire che bisogna stracciare le regole e farne delle altre, poi bisogna vedere chi avrà il potere di fare questo. Riportare lo sport e il calcio in particolare, lo sport tra i bambini, tra i giovani, nelle scuole. Abbiamo 2 ore di educazione fisica alla settimana, in Francia, in Germania, in Inghilterra, in Belgio sono 5 le ore. Sì, tanto per fare un piccolo esempio. No, lo so, un però piccolo esempio. Erano 2 ore a anche margine. No, ma erano 2 ore anche quando andavo a scuola io, che appunto, sono del 68, sì. E abbiamo poi vinto qualche cosina. Però questo è chiaro, questo è evidente. Io condivido totalmente quello che dici. Tony, ti devo salutare perché è per questione di tempo, ma ti ringrazio. Grazie. No, io ringrazio voi sempre. Alla e buon prossima. Lavoro. Grazie Tony Damascelli, 800 24 00 24, numero verde, torniamo dopo la borsa. Mancherebbero 2 minuti, però mi hanno dato 3 minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23:20. Manca 23:24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading. vi presenta Tutti convocati. Per cui devono trovare nuove caselle. Se questo succede, in bocca al lupo calcio. Noi non possiamo fare niente. Auguri calcio. Noi siamo molto dispiaciuti di tutto questo. Pensiamo che si debba fare un'altra strada, però non abbiamo gli strumenti giuridici per impedirlo. Nel caso questo non succede, quel commissariamento non può essere procrastinato, perché si va nella straordinaria amministrazione, mentre il presidente dimissionario può solo esercitare funzioni di ordinaria amministrazione. La mia posizione è netta, è chiara, se volete dico anche categorica. Cioè, per me il calcio italiano va riformato, vanno cambiate le cose sotto tanti punti di vista. Come si deve arrivare a questo? Secondo me non si può che passare da un commissariamento con poteri ampi, soprattutto un commissariamento lungo, perché il male è profondo, il male secondo me esiste alle radici anche e soprattutto di carattere statutario. Allora, questo riassunto sonoro di quanto ha detto ieri Malagò, presidente del CONI, mi sembrano chiare le posizioni. Si vuole commissariamento, ma commissariamento giuridicamente non si può fare. Notizia di oggi è che la Lega di B ha un nuovo capo, si tratta di Mauro Balata, dunque un problema è risolto. Ora c'è tempo fino all'11 di dicembre per capire se anche la Lega di Serie A avrà il nuovo commissario, avrà il nuovo presidente, altrimenti diventerà possibile il commissariamento. Ma io voglio essere più preciso e più chiaro del sole, e perciò c'è Marco Berinazzo da Sole 24 Ore per l'appunto. Ciao, che bella musica che avete scelto. Hai visto? Ha messo un po' di angoscia, devo dire. Ma anche a me, ma infatti ma l'angoscia la mette la situazione più che la musica, quindi era appropriata. Bravi, bravi Ferronato e De Luca. Fabio, buongiorno. Buongiorno. Ci sta ascoltando all'inizio della trasmissione. Buongiorno, dica. Allora, volevo intervenire su Allegri, sì, sul fatto che comunque Allegri ha sempre detto delle cose ben chiare: la squadra arriverà al punto giusto, quando arriverà il dato mese, e anche quest'anno secondo me ha qualche coniglio nel cilindro. Detto questo, secondo me se a gennaio offrono 100 milioni per Dybala bisogna venderlo. Ma non, secondo me a gennaio è difficile che si muova un giocatore come Dybala. Io non ricordo trasferimenti di questo tipo nel mercato invernale. Si deve vendere Dybala? Vediamo, non mi sfugge un po' il motivo, perché è un giocatore abbastanza unico nel suo genere, non sta giocando bene, questo è chiaro. Non condivido le critiche per partito preso a Massimiliano Allegri, che, ripeto, l'ho detto prima, è un allenatore che a me piace moltissimo. Poi non so se Berinazzo vuole aggiungere qualcosa sulla situazione dei tuoi avversari del momento. Beh, non ho avversari, no? Non dire sciocchezze, dai, da tifoso del Napoli non è avversari, no, non abbiamo avversari, ma corriamo da soli contro il vento. Sì, contro un po' di sfortuna che ci ha tolto due giocatori fondamentali, e si fa un percorso, un percorso che, diciamo, in questo momento vede comunque il Napoli al primo posto, la Juve resta fortemente favorita. Io condivido, cioè, le osservazioni che l'ascoltatore faceva prima. Cioè, Allegri è abituato a portare la squadra al punto giusto quando conta. Continua, cioè, a fare lo scaramantico in primavera, no, è lì che si decide. Vabbè, parliamo di Federcalcio. Io ringrazio, saluto e ringrazio il nostro amico Alessandro Alciato, che sta seguendo i battiti Del momento in ambienti politico federali, politico sportiv federali. Ale, mi è piaciuto sportiv, sì, perché sennò mi veniva male, lo sciogli lingua. Che succede? Ieri è stato molto chiaro il presidente della CONI. Succede che se entro l'11 dicembre, giorno in cui scadrà il mandato di Tavecchio come commissario della Lega di Serie A, la Lega di Serie A non troverà la sua governance, come dicono quelli bravi, e allora il CONI commissarierà la Federcalcio, Io credo che questo alla fine non succederà, perché hanno litigato fino ad oggi le società di Serie A, ma secondo me di fronte all'ipotesi di commissariamento alla fine una via comune, una via unica la troveranno, almeno io credo questo, anche se è vero che qualche alto dirigente di Serie A in questo momento tifa magari in una maniera segreta per il commissariamento. Ecco, io è questo che volevo chiedere, perché il fronte mi sembrava unito, adesso non so, si dice, mi stai dicendo tu, si intuisce, non sarebbe più così unito. Tu sai qualcosa di più, Beninazzo? No, più o meno la situazione, diciamo, è fluida. Però qui si sta confondendo, diciamo, come dire, il problema delle poltrone con l'obiettivo che ci si deve porre. Cioè, mi sembra che la questione che l'eliminazione della Svezia contro la Svezia ha determinato è cosa si fa del calcio italiano, perché non per l'eliminazione della Svezia, ma per tutto quello che è successo negli ultimi 15-20 anni, il calcio italiano ha preso una deriva assolutamente come dire, non incoraggiante, anche a fronte dello sviluppo che invece il calcio sta avendo in Europa e nel resto del mondo. E allora questa, se vuole essere non un'occasione buttata al vento, deve essere l'occasione in cui si individuano 4-5 cose da fare, non 27 o 90 che è quello che riempie i programmi. E anche gli uomini in grado di farlo. Gli uomini in grado di farlo, perché la Serie A ora deve eleggere i suoi organi, ma vi ricordo che la Serie A doveva eleggerli in funzione di una riforma dello statuto che doveva cambiarne la governance, è senza chiaro, la più aziendale, non trovare nemmeno questa penna senza. Allora, il problema è che qui possiamo eleggere tutte le persone che vogliamo, ma se non si hanno chiari gli obiettivi, cioè per cosa le eleggiamo, quali sono gli obiettivi? Io per questo sono molto d'accordo invece con Maragò che il calcio italiano, la federazione in particolare, ha bisogno di un commissariamento lungo con degli obiettivi precisi, pochi ma precisi, e non c'è bisogno, ripeto, di fare chissà quali rivoluzioni, basta a guardare i migliori esempi che ci sono in Europa e farle queste cose. Alessandro, per chiudere con te, poi ti lascio andare a lavorare per Sky come sempre, faccio lo spione, hai idea di qualche nome che potrebbe essere, insomma, candidabile, papabile, di qualcuno che vorrebbe o potrebbe assumere poteri di questo tipo? Guarda, per il ruolo di presidente della Lega no, ma ti dico perché no, perché insomma ovviamente un po' di telefonate in questi giorni le ho fatte, le ultime pochi minuti fa, perché volevo arrivare preparato e mi aspettavo questa domanda, ma un nome non c'è. Tutti mi dicono di essere molto ottimisti, lo troveremo entro l'11, ma al momento, tra l'altro lunedì c'è questa assemblea elettiva della Lega Calcio, ovviamente sarà un nulla di fatto, nel senso che manca troppo poco tempo, cioè lunedì è troppo vicino e non verrà trovato quel giorno un presidente di Lega, però credo che in quell'occasione si alzeranno anche i toni della discussione, si alzeranno anche i toni della voce, ma lì dovranno tirar fuori comunque un nome che sia condiviso, che comunque metta d'accordo la maggioranza. Agli strilli, agli strepiti siamo abituati, no? Tu sei stato lì un sacco di volte, non servono neanche i microfoni nelle stanze perché si sentono da fuori, quindi, ma questa è storia di qualche anno, anzi di molti anni. Ale, ti ringrazio, buon lavoro, un abbraccio. Grazie a voi. Ciao Alessandro, ciao. Marco, ci fermiamo un attimo per il traffico, poi torniamo. Una puntata davvero eccitante, piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Tutti convocati. Ed ecco che torniamo con Marco Berinazzo su 24 ore. Visto che abbiamo appena fatto il traffico, per individuare e capire l'ingorgo che si sta creando, molti hanno dimenticato che questa assemblea, quella di lunedì del 27 della Lega Serie A, originariamente era stata convocata per una quisquilia, cioè la vendita, il bando dei diritti TV della Serie A, che dovrebbe poi reggere tutto il sistema, perché sono quelli gli ultimi soldi, i pilastri di tutta la baracca, no? Sì, quindi ora lì la lasciamo sullo sfondo, ora litighiamo. Mamma che paura. Insomma, credo che davvero la sconfitta sportiva ci ha amareggiato tutti, però altri paesi hanno saputo ricostruire. Ora, certo, non c'è nessuna fretta, tra l'altro, voglio dire, in teoria non ci sarebbe nessuna fretta, non abbiamo la fretta ora di fare quello che non abbiamo fatto diciamo in 20 anni, per un anno nazionale contro nulla, dai, ecco. Quindi a questo punto si prenda, ecco, il commissario poteva servire a gestire l'ordinaria amministrazione, rifare le fondamenta giuridiche della federazione e poi fare quelle cose, decidere cosa fare, le squadre B, la riduzione delle squadre, i vivai, lo ius soli sportivo, incentivare la costruzione di stadi e centri sportivi, obbligare le società per esempio a utilizzare il 5-6% del fatturato per rifare i centri sportivi e investire sui vivai anziché fa riferimento a questa finta norma che è quella che prevede il 10% degli utili che nessuno fa, e quindi una serie di cose, 5-6 cose, 10 vogliamo esagerare, non di più, ma si possono fare se c'è la volontà di farle. O si fa con la rivoluzione popolare oppure si fa cambiando i regolamenti, e io credo che la seconda strada sia più praticabile. Già sono anni che diciamo che con i regolamenti attuali in Lega, Beretto, Ghiberesso, Beretta, che è stato dimissionario per quanto tempo? Non mi ricordo più. Beh, 7-8 mesi. Anche di più. Ha sempre detto anche lui, guardate, con i regolamenti attuali chiunque venga non può spostare neanche una penna. Lo ripeto, è un'immagine che rende l'idea. Vedo parlare Kakà sugli schermi. Kakà perché? Perché Kakà oggi era in sede al Milan. A fare cosa? Non è chiarissimo, ma lo sentiamo anche noi. No, abbiamo parlato solo di alcune cose, idee, perché per me è un momento personale speciale, devo decidere ancora cosa voglio fare, se voglio giocare o no, ho preso questo tempo per me, per decidere fuori calcio, fuori tutto, perché penso che da qui in poi sarà la mia vita, quindi ho detto, questo che ho detto a Marco, che è un momento mio personale, però avere questo avvicinamento, riavvicinare a questa società, al Milan, per me è stato bellissimo. Marco sta per Fassone, ovviamente, che è andato lì a sostanzialmente a farsi vedere. Il Milan in questo momento avrebbe bisogno di una faccia, di un'immagine, di una visita di Kakà in sede, di un tuffo nel passato. Io la interpreto, la leggo così. Sì, mi sembra che possa essere un bel personaggio, una bella faccia da spendere o magari da utilizzare nel settore tecnico, insomma, a patto che le cose vadano bene, che si superano quelle perplessità che oggi anche il presidente della UEFA Čeferin, in un'intervista a Repubblica, ha espresso in relazione, insomma, alla situazione proprietaria, societaria del Milan. Čeferin ha detto che la UEFA sta lavorando, che a dicembre ci sarà la risposta sul voluntary agreement. I giorni scorsi sappiamo Marca ha scritto che l'orientamento è il no, effettivamente la UEFA si sta orientando su un giudizio negativo, vediamo però se questo supplemento di documenti potrà cambiare le cose in tavola. Fondamentalmente la UEFA in questo momento è preoccupata di avere di fronte una proprietà che possa assicurare continuità al progetto, perché nel momento in cui io ti do delle deroghe dei 3 o 5 anni a fair play finanziario e do credibilità al tuo piano di sviluppo di ricavi, voglio essere sicuro che tra 6 mesi, un anno di là ci sei ancora tu a sentire allo stesso tavolo. Ma perché qualche tifoso del Milan, anzi molti tifosi del Milan, se la sono un po' presa quando l'altro giorno abbiamo raccontato quello che tu hai scritto, peraltro ampiamente documentato, e c'è quello che hai detto ora, che l'UEFA era orientata, è orientata, sarebbe orientata a dire no a questo voluntary agreement con il Milan, e dunque questi sono i fatti, potete arrabbiarvi finché volete. Tra l'altro non significa, come Marca ha scritto, che il Milan che andrà a fare la Coppa, abbiamo spiegato che poi ci sarà il settimo in primavera, ci saranno le altre sanzioni come le ha avuto l'Inter, la Roma, però qui c'è una preoccupazione in più, cioè vogliamo essere sicuri che, proprio perché teniamo al Milan e questa è la posizione della UEFA, vogliamo essere sicuri che di là ci sia un interlocutore credibile, serio, e che dia continuità a questo progetto. Il Milan spero abbia risposto a questi interrogativi, sono stati quelli posti in sede quando la delegazione rossonera è andata a parlare con gli organi contabili della UEFA e il supplemento di documenti che la UEFA ha chiesto. Vediamo ora, insomma, non resta che aspettare qualche giorno. Sì, non resta che giorno. Aspettare nemmeno qualche altra notizia, anche qualche altra notizia relativamente alla proprietà, perché ogni settimana ne escono di nuove, no? Sì, oggettivamente lì c'è questa situazione in cui io ho presentato tutta una serie di garanzie, le sue proprietà, la miniera, la famosa miniera di fosforo che non sarebbe sua, secondo il New York Times. Insomma, tante situazioni, una situazione patrimoniale rispetto alla quale, diciamo, una banca, mettiamo così, dovrebbe dire: ok, ti rifinanzio, per esempio, evito che il Milan vada in mano a Elliott, oppure no. Vediamo se il Milan troverà questo rifinanziatore, insomma, se la UEFA darà l'ok. Il problema vero, e qua ci leghiamo alla grande confusione del calcio italiano in questo momento, è che io ricordo sempre in Premier, prima di acquistare i club, ti chiedono anche l'analisi del sangue, prima di acquistare il club, non dopo. Da noi c'è una norma che prevede che chi compra più del 10% di un club debba presentare una sorta di curriculum, ma una volta che l'ha presentato e grosso modo non è, diciamo, totorina, bene o male glielo fanno prendere. Ecco, e non sono questi i controlli che servono ad evitare che il secondo brand italiano vada magari in mano poco certo, così come servirebbero controlli per evitare che una squadra comincia il campionato di Serie B e si ritrova con la procura che chiede il fallimento, un'altra squadra che inizia dopo due mesi in Lega Pro come il Modena e non ha più soldi per pagare lo stipendio. Le norme ci sono, io non capisco perché queste situazioni si continuano a verificare. Insomma, stiamo tutti molto bene, abbiamo fatto questa puntata, ci siamo risollevati il morale, adesso andiamo ad appendere una corda dei lampadari. Beh, e più che altro troviamo quattro persone che riescono a fare quelle riforme quattro ne servono. Stiamo tutti molto bene, anche Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, ringrazio Marco Bellinazzo, anche lui sta molto bene, e ci sentiamo sempre molto bene domani alle 14 tutti convocati. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti.